Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. The decision to go to war in Iraq and to remove Saddam Hussein from power in a coalition of over 40 countries led by the United States of America was the hardest, most momentous, most agonizing decision I took in my 10 years as British Prime Minister. For that decision today, I accept full responsibility, without exception and without excuse. Senza scuse, senza giustificazioni, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo avete sentito, è l'ex primo ministro britannico Tony Blair, che cosa ha fatto in modo così animato, insomma, si è difeso, ha difeso la sua decisione nel 2003 di intervenire accanto agli Stati Uniti nella guerra in Iraq. Perché questa conferenza stampa? Perché una commissione d'inchiesta, il cui rapporto si aspettava da tempo, questo rapporto Chilcot, dice praticamente che quella era stata una guerra avventata, insensata, senza delle giustificazioni vere e legali, e che poi viene fuori anche che Blair aveva scritto a Bush dicendo sarò al tuo fianco al tempo, sarò al tuo fianco costi quel che costi, insomma. E quindi questa inchiesta lo accusa, lo inchioda alle sue responsabilità, poi ricordando anche quante migliaia di morti ci sono stati di iracheni, ancora insomma il paese nel caos totale, anche quanti soldati britannici sono morti per quella guerra. E Blair si è difeso così dicendo sì, me ne prendo la responsabilità, però lo rifarei, perché senza Saddam Hussein il mondo è migliore. Ecco, se volete, questo è il tema che vi sottopongo questa sera per le vostre opinioni. Che cosa avete pensato allora, vi ricordate, quando si preparava questa guerra in Iraq per eliminare Saddam Hussein, che secondo le accuse nascondeva armi di distruzione di massa? Che cosa avete pensato al tempo? Che cosa pensate oggi di quella guerra? 349-238-6666, come sempre il vostro numero per SMS e WhatsApp, oppure c'è lì per voi sempre comodamente la pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, se non la trovate, è lì per voi giorno e notte, alla quale potete aderire senza indugio. Quindi cosa pensate, e cosa pensate, avete pensato al tempo, e cosa oggi, per esempio, con questa inchiesta, questo rapporto Chilcot, che dice andare in guerra in Iraq è stata una decisione sbagliata. Moltissimi sono i temi oggi, parleremo di politica, perché questa inchiesta di Roma, di cui abbiamo parlato negli ultimi due giorni, della Procura di Roma, sta rischiando di causare anche una crisi di governo, visto che in qualche modo, anche se non c'è nulla di penalmente rilevante per il ministro Alfano, lo sta in qualche modo coinvolgendo nelle intercettazioni, si parlerebbe di suo fratello, di suo padre. Comunque, siccome il tempo come sempre stringe, gli argomenti sono tantissimi, comincio come sempre con riassumervi la giornata. Bangladesh, l'autopsia rivelano, gli italiani sono stati torturati, una morte lenta, mutilazioni e niente colpi di grazia. Banche, vertice anticrisi a Palazzo Chigi, Renzi rassicura, i correntisti saranno tutelati, il problema non è l'Italia, dice Renzi, e con l'effetto Brexit borse europee in rosso. L'inchiesta Labirinto, il ministro Alfano nella bufera, non mi dimetto, fa sapere, il PD lo blinda, le opposizioni insistono sulle dimissioni. Milano, 11 arresti per appalti legati a Fiera Milano ed Expo, agevolati i clan mafiosi. La guerra in Iraq, invadere il paese fu una scelta precipitosa. Una commissione d'inchiesta punta il dito su Blair, lui si difende e dice il mondo è migliore senza Saddam. Marche è morto, il profugo nigeriano pestato a sangue a Fermo dopo aver difeso la moglie da insulti razzisti. Regeni, la Camera conferma no all'invio di pezzi di ricambio per gli F-16 all'Egitto, respinto quindi l'emendamento di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. 6 anni di carcere per Pistorius, l'ex campione paralimpico condannato per l'assassinio della fidanzata Riva, non farà ricorso, l'accusa aveva chiesto 15 anni, addolorati i familiari della ragazza. Euro 2016 in campo, la prima semifinale, sfida tra Portogallo e Galles. E partiamo quindi da questo orrore che emerge dalle autopsie sui corpi dei 9 italiani uccisi nella strage di Dhaka in Bangladesh. Si parla proprio di una vera mattanza perpetrata con torture, tagli provocati da armi affilate, probabilmente il machete, non su tutti ma anche varie mutilazioni. E questo emerge appunto da queste autopsie eseguite oggi nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico Gemelli di Roma. L'equipe di medici legali non ha trovato segni di colpi di grazia, anche se alcuni proiettili sono stati recuperati ed ora saranno analizzati per sapere da che tipo di arma sono stati sparati. Non mancano sui cadaveri anche tracce di esplosivo, insomma una morte Lenta e atroce quella degli italiani uccisi in Bangladesh. I terroristi hanno infierito sulle loro vittime in modo tale da non farle morire subito, si legge. Il PM romano Francesco Scavo, titolare degli accertamenti, ha firmato il nulla osta poi per la restituzione delle salme alle famiglie. Nei prossimi giorni saranno celebrati i funerali. Questo per dire questi dettagli, a volte qualcuno dice sono eccessivi, però devono veramente provocare la nausea verso certe atrocità compiute dagli uomini, come in questo caso. La guerra in Iraq, l'invasione britannica in Iraq del 2003 a sostegno degli Stati Uniti è stata avventata, basata su informazioni scorrette, non necessarie e male organizzata. Dopo 7 anni ci sono le conclusioni della commissione d'inchiesta chiamata a indagare su quell'intervento militare che inchiodano alle sue responsabilità l'allora premier britannico Tony Blair. Noi abbiamo concluso che la Gran Bretagna scelse di invadere l'Iraq prima che l'opzione pacifica di un disarmo fosse esaurita. L'azione militare, si legge in questo rapporto, in quel momento non era l'unica spiaggia, così ha detto John Kilton, presidente della commissione, riassumendo i risultati dell'inchiesta. Non solo, il governo Blair, nonostante gli avvertimenti, sottovalutò le conseguenze dell'invasione, così come non fu preparato in modo adeguato alla gestione del dopo Saddam. Abbiamo concluso, ancora si legge, che le circostanze in cui è stato deciso che c'era una base legale per l'intervento militare britannico erano lontano dall'essere soddisfacenti. E Blair, come avete sentito, da parte sua si è difeso, sostenendo di aver agito in buona fede e durante i 6 anni di impegno militare in Iraq, si ricorda questa inchiesta, morirono 179 soldati britannici e molte migliaia di civili iracheni. Cosa avete pensato e quali riflessioni avete fatto allora, quando si iniziava, quando c'è stato questo intervento in Iraq, e quali sono le vostre riflessioni? Adesso 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Cambiamo completamente argomenti, torniamo in Italia con il tema delle banche. In una settimana di tensione, tra l'altro, sui mercati, in serata ha parlato il presidente del Consiglio Renzi. I risparmiatori italiani, i correntisti italiani non hanno alcun problema e per me questa è la priorità. L'Italia naturalmente segue con grande attenzione il governo italiano, perché il nostro obiettivo non è tanto quello di intervenire per salvare le autorità bancarie, come dice qualcuno, ma è quello di mettere al sicuro i correntisti, e noi possiamo dire che correntisti e risparmiatori in Italia sono totalmente al sicuro. Questo è solo ciò che mi interessa. Ma la giornata, dicevamo, è stata ancora difficile. Ancora segno negativo per Piazza Affari, con il FTSE MIB che lascia sul terreno il 2,26% in linea con le altre piazze europee. Gli effetti della Brexit e la fragilità del comparto creditizio si fanno ancora sentire. Su Milano pesa anche la performance di Telecom, meno 10,8%. Male i bancari, in ribalzo tecnico però Monte dei Paschi di Siena, più 6%. Gli investitori scommettono sull'intervento dello Stato. La Consob vieta comunque vendita allo scoperto per 3 mesi. Vertice intanto nel pomeriggio a Palazzo Chigi tra il ministro dell'economia Padoan e i responsabili di Cassa Depositi e Prestiti. Sul tavolo l'urgenza di individuare nuove risorse per il Fondo Atlante, fondi indispensabili per predisporre l'acquisto dei non performing loan che gravano sull'attività di alcune banche. Una delle situazioni più critiche riguarda proprio MPS. Nel caso particolare lo Stato interverrebbe con un aumento di capitale a finalità preventiva con garanzia pubblica in vista della cessione di quasi 10 miliardi di crediti deteriorati, come da indicazione della BCE. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora l'inchiesta sulle tangenti nei ministeri che porta il governo sull'orlo della crisi, comunque delle ripercussioni politiche. Parleremo tra poco qui nel corso di Effetto Notte con un ospite. Intanto sentiamo quali sono gli sviluppi giudiziari. È la segretaria di Raffaele Pizza, il faccendiere figura chiave nell'inchiesta Labirinto, a tirare in ballo il padre di Angelino Alfano. In un'intercettazione telefonica, Marzia Capaccio, anche lei indagata, parla di 80 curriculum inviati dal padre del ministro dell'Interno e delle sue pressioni per ottenere assunzioni alle Poste. In un'altra intercettazione telefonica è invece lo stesso Pizza a vantarsi di aver facilitato l'assunzione, sempre alle Poste, del fratello minore del ministro. Secondo gli investigatori, la cricca avrebbe poi cercato di mettere le mani anche sull'appalto per il sistema di digitalizzazione degli atti giudiziari, il software che custodisce i segreti delle procure. Per questo avrebbe avvicinato il vicepresidente del CSM, Legnini, e provato ad agganciare anche il sottosegretario Lotti, fedelissimo del premier Renzi. Legnini oggi si dice estraneo alla vicenda e nega di aver mai conosciuto gli indagati, mentre il guardasigilli Orlando assicura invece che il sistema informatico in questione Lione è sicuro ed è strettamente controllato dal Ministero della Giustizia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora a Milano invece l'inchiesta che fa emergere le mani della mafia siciliana pure sui padiglioni di Expo. In 11 le persone sono state arrestate su richiesta della direzione distrettuale di Milano per infiltrazioni delle cosche negli appalti di una società controllata dalla Fiera. Su questa inchiesta però torneremo più tardi, andiamo più nei dettagli. E da Milano, dove domani ci sarà poi il discorso di insediamento del nuovo sindaco Sala, di nuovo adesso a Roma con la presentazione della giunta pentastellata. Si riunirà domani per la prima volta il Consiglio Comunale di Roma, guida Movimento 5 Stelle. Due settimane dopo il ballottaggio, sciolti i nodi e le polemiche che hanno accompagnato le prime scelte del neo sindaco pentastellato, Virginia Raggi, sarà presentata la giunta che governerà per i prossimi 5 anni la città. Gli assessori in pectore, incontrati oggi in Campidoglio dalla prima cittadina per una riunione informale di giunta, sono Laura Baldassarre, politiche sociali, Paolo Berdini, urbanistica, Luca Bergamo, cultura, Andrea Lo Cicero, sport, Flavia Marzano, semplificazione, Paola Muraro, ambiente, Marcello Minenna, bilancio e partecipate e Adriano Meloni, sviluppo economico e commercio. Daniele Frongia, inizialmente nominato capo di gabinetto da Raggi, dovrebbe ricoprire la carica di vice sindaco, mentre all'assessorato ai trasporti potrebbe arrivare Enrico Stefano, i due consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle rieletti alle ultime amministrative. Ed è stato proprio Stefano ad annunciare che domani il Movimento 5 Stelle si siederà negli scranni di sinistra dell'aula di Giulio Cesare, tradizionalmente occupato dal Partito Democratico. Un lato lo dovevamo scegliere, se ci mettiamo a sinistra è il lato del PD, se ci mettiamo a destra è il lato del PDL, al centro del Consiglio per terra non ci possiamo stare, quindi inevitabilmente avremmo scelto un lato di uno, di una persona, di un schieramento e un lato di un altro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il caso Regeni, la Camera ha respinto un emendamento di Forza Italia, della Lega di Fratelli d'Italia, che avrebbe reintrodotto nel decreto missioni l'autorizzazione a fornire all'Egitto pezzi di ricambio per i caccia F-16. L'autorizzazione era stata espunta dal decreto nel passaggio al Senato, però la Camera ha respinto questo emendamento, quindi resta il blocco nei confronti dell'Egitto del rifornimento di pezzi di ricambio per i caccia F-16. Siamo alla cronaca, è morto il migrante finito in coma irreversibile dopo un pestaggio da parte di un ultra della Fermana, nelle Marche, a Fermo, durante una lite, perché l'italiano aveva insultato la compagna di questo nigeriano dandole della scimmia africana. Le condizioni di Emmanuel Cidi Nabdi, richiedente asilo, ospitato presso il seminario Vescoville di Fermo, sono apparse subito disperate. I genitori dello studente americano morto a Roma sono stati ricevuti oggi dal Papa. Intanto è stata fatta l'autopsia sul corpo del giovane. È morto per annegamento Beau Solomon, lo studente americano spinto nel Tevere la notte tra il 30 e il 1 luglio scorso. È quanto emerge dall'autopsia disposta dalla Procura di Roma. L'esame autoptico avrebbe infatti confermato la presenza di acqua nei polmoni del giovane. Per i risultati dell'esame tossicologico bisognerà attendere ancora alcuni giorni. Sul fronte delle indagini è stato fissato per domani l'interrogatorio di convalida dell'uomo fermato con l'accusa di aver ucciso lo studente Massimo Galiotto. Nei confronti del 41enne senza fissa dimora romano, il PM Marcello Monteleone contesta il reato di omicidio aggravato da futili motivi. L'uomo però nega. «Io non c'entro nulla», ha detto. «Su quella banchina non ero solo». Domani verranno visionati i video delle telecamere che avrebbero ripreso la scena della lite. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È arrivata la sentenza per Oscar Pistorius, l'ex campione paralimpico sudafricano che aveva accusato per l'omicidio nel 2013 della fidanzata Riva Steenkamp. L'ex campione ha evitato la pena più dura, era stato richiesto per lui i 15 anni, invece è stato condannato a 6 anni e dolore hanno espresso i familiari della ragazza uccisa. Una buona notizia dopo tanta pesantezza: un tassista trova $187,000 sul sedile della sua auto e li restituisce. Il buon samaritano, non è italiano, è di Boston, in Massachusetts, dopo aver effettuato la sua ultima corsa si è accorto della presenza di una borsa sul sedile posteriore. Dopo averla aperta nel tentativo di recuperare una carta d'identità del legittimo proprietario, ha avuto la sorpresa di scoprire che la borsa conteneva denaro contante. Invece di tenerli per sé, cosa ha fatto? È andato alla polizia. Gli agenti non hanno potuto fare a meno, insomma, di stupirsi sapersi di quanti soldi, di quante banconote c'erano. Dopo alcune ricerche è risultato che questo denaro apparteneva a un senza tetto ed era il frutto di un'eredità lasciatagli dal padre morto di recente. Pensate che storie, che intrecci particolari. Il tassista, tra l'altro, ha detto che non è la prima volta che trova dei soldi. Se continua a fare il tassista, evidentemente perché li ha sempre restituiti. Chiusura con lo sport. Una notizia che riguarda il doping da record nel bodybuilding. L'atleta Claudia Stella è infatti risultata positiva a un controllo Nado Italia, 21 sostanze proibite, un cocktail che va dall'anstrozole al torasemide. E il test è stato realizzato in occasione dei campionati italiani in Nord Italia a Bussolengo il 29 maggio scorso, è stato rivelato adesso, e tra l'altro ci sono altri 10 atleti che sono risultati positivi. C'è il nostro Dario Ricci, col quale però ci concentriamo sulla prima semifinale di Euro 2016. Certo, che come ha fatto a trovarsi positiva a 21 sostanze invece di, non so, prendersi un Negroni, si prendeva questi cocktail, Dario? Beh sì, insomma, era meglio uno spritz, cosa proprio volevi, semplicemente. Almeno la sostanza era una e forse i risultati sarebbero stati anche migliori in termini di esaltazione della prestazione. Scherzi a parte, stanno facendo invece sul serio a Lione Portogallo e Galles, il sorprendente Galles che è arrivato, pensa, per la prima volta qualificato la fase finale di un europeo ed è arrivato in semifinale. Siamo al 18° di gioco, ancora 0-0, più vicino al vantaggio il Portogallo. Un paio di minuti fa, con un diagonale di destro di João Mario, finito di poco sul fondo, ma adesso il Galles che si fa avanti col solito Gareth Bale che conquista un calcio d'angolo. 0-0, finora si è visto poco Ronaldo, ma la partita è lunga, c'è tempo per i campioni per iscriversi nel tabellino dei marcatori. E avremo tempo naturalmente di risentirci con Dario Ricci. Grazie Dario. Adesso un'occhiata veloce ai vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche al numero 349-238-6666, che ve lo ricordo, il numero per WhatsApp e SMS. La domanda che vi ponevo riguardava appunto questa commissione d'inchiesta che ha accusato Blair, a distanza di anni, di essere intervenuto senza dei fondamenti giuridici soddisfacenti nella guerra in Iraq, al fianco insomma degli Stati Uniti, di Bush. Vi chiedo quali sono i vostri commenti, che riflessioni avete fatto al tempo nel 2003 e quali sono i vostri pensieri adesso su quella guerra. Duilio scrive: il mondo che ci hanno lasciato queste scelte criminali sotto gli occhi di tutti, Blair e Bush andrebbero indagati come minimo dai rispettivi parlamenti. Poi invece dice un altro ascoltatore che propone esilio per, che avrebbe voluto l'esilio per Saddam e aiuto alla nazione, quindi all'Iraq. Rosario: a rigor di logica Tony Blair è un omicida di massa, andrebbe processato ed impiccato, insomma non esiste comunque la condanna a morte in Gran Bretagna. E poi gli altri messaggi, per esempio dice questo ascoltatore, ascoltatrice, non si firma, dico sempre mettete almeno un nome d'arte: mi sembra di ricordare che eravamo anche noi italiani, anche se in modo un po' defilato, anche da noi qualcuno ha creduto le barzellette delle armi di distruzione di massa, oltre che alla nipotina di Mubarak. Viabilità tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, quindi riassunto della giornata. Ritorno ancora qualche momento sui vostri messaggi, la pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, prima di cominciare ad approfondire i vari argomenti con gli ospiti. Il tema che avevo lanciato è appunto, viene da una delle notizie principali di oggi, cioè di una commissione d'inchiesta in Gran Bretagna che ha accusato l'ex primo ministro Tony Blair di essere intervenuto nella guerra in Iraq contro Saddam Hussein al fianco degli Stati Uniti in modo illegittimo e non pensando neanche alle conseguenze che sarebbero poi derivate da questa guerra. Alessandro scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte: la legittimità dell'intervento in Iraq, l'illegittimità era ed è tuttora sotto gli occhi di tutti. Gli Stati Uniti hanno risposto alla domanda delle lobby petrolifere, l'Inghilterra followed suit come tradizione vuole, quindi la seguito forte alleata degli Stati Uniti. Questo ha avuto un'importanza determinante sul rapido sviluppo del terrorismo internazionale di matrice islamica sia in Iraq che nel mondo, scrive Alessandro. L'ISIS è figlio di quell'intervento vergognoso. Saluti da Lussemburgo. Questo è l'ascoltatore che scrive da Lussemburgo. Poi Per esempio, Mimmo da Teramo: come faceva a notare il compianto Marco Pannella, la regina Elisabetta non ha concesso a Blair una onorificenza, non ricordo quale, di prassi attribuita a tutti gli ex premier. E poi invece Natascia da Prosecco dice: scrisse un'email alla rubrica di Riotta, il giornalista sul Corriere, definendo la guerra d'occasione di Bush immotivata ed oscena, che avrebbe acceso per reazione una jihad più di quanto sarebbero riusciti 100 Bin Laden. Quindi queste le vostre riflessioni di allora e anche quelle di oggi al 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Adesso però vi ricordo le notizie più importanti della giornata, se non avete acceso puntualmente alle 21, e poi cominciamo ad approfondirle. Sulle banche Renzi tranquillizza i correntisti, non avranno problemi, tanto un vertice appunto sulle banche con Padoan a Palazzo Chigi. Poi il PD che blinda Alfano per questa inchiesta che in qualche modo nelle intercettazioni lo coinvolgerebbe, ma il nuovo centrodestra è nel caos per quanto riguarda il sostegno al governo. Ma il ministro si difende, Alfano dice: barbarie contro di me e la mia famiglia. 11 arresti a Milano, la mano dei clan sui capannoni per Expo, un'inchiesta che riguarda Milano di cui parleremo. E poi per quanto riguarda i 9 italiani uccisi in Bangladesh, è stata fatta l'autopsia sulle loro salme, risulta che sono stati torturati e mutilati, una morte atroce e lenta per le vittime. Guerra in Iraq si poteva evitare, il rapporto in Gran Bretagna di questa commissione d'inchiesta boccia Blair, ex premier, lui dice: una scelta difficile, fu una scelta difficile, ma il mondo è migliore senza Saddam. Pistorius, l'ex campione olimpico paraolimpico condannato a 6 anni per l'omicidio della fidanzata Riva, l'accusa ne voleva 15 di anni, il giudice dice è un eroe caduto e dolore da parte dei familiari della ragazza. Calcio scommesse, il procuratore generale impugna la sentenza di assoluzione per Conte che è stato assolto, e poi Messi, il calciatore argentino, e il padre condannati a 21 mesi per frode fiscale. A che punto è la partita invece, la prima semifinale tra Portogallo e Galles per Euro 2016? 0-0. È un'occasione ancora una volta per far capire agli italiani che questo è un governo di faccendieri e di gente che aiuta gli amici degli amici degli amici, se non i parenti. Quindi anche in questo caso è la dimostrazione che aiutano sempre i soliti. Questo è il duro attacco al governo dell'esponente della Lega Centinaio, così come ce ne sono state altre da parte delle opposizioni al governo, sono state chieste le dimissioni del ministro dell'Interno Alfano, in qualche modo coinvolto, nominato secondo le intercettazioni in questa inchiesta per corruzione e riciclaggio con epicentro la capitale, denominata Labirinto non per niente questa inchiesta, perché davvero si rifà un comitato affaristico, un ennesimo intreccio insomma fra politici, imprenditori e altri funzionari, e poi con 1000 carte, ne parlavamo in questi giorni, veramente un'inchiesta complessa che dura da 3 anni su un presunto giro di mazzette, appalti pilotati, che ha portato all'arresto di 24 indagati, al sequestro di oltre più di 1 milione di euro tra immobili, conti correnti, quote societarie eccetera. Tra gli indagati anche un parlamentare in carica che è Antonio Marotta del Nuovo Centrodestra, un ex sottosegretario del governo Berlusconi Giuseppe Pizza. Tra gli arrestati la figura di spicco è proprio Raffaele Pizza, fratello di questo Giuseppe Pizza, che adoperando i suoi legami stabili col mondo della politica rappresentava questo snodo tra il mondo imprenditoriale e quello degli enti pubblici. Nelle intercettazioni parrebbe che questa cricca abbia favorito anche il fratello del ministro dell'Interno Alfano, facendolo assumere in una società delle Poste. Poi ieri, vi ricordate, vi ho aggiornato in tempo reale in diretta, perché è venuta fuori mentre ne parlavamo anche un'agenzia, un dispaccio d'agenzia che diceva che anche il padre di Angelino Alfano, secondo queste intercettazioni, avrebbe fatto pressioni presso le Poste italiane inviando 80 curricula. L'inchiesta quindi a questo punto assume una forte valenza politica. Alfano si difende, dice: questa è barbarie contro la mia famiglia e contro un uomo di 80 anni, suo padre, dice, il cui fisico è stato fiaccato da una malattia neurodegenerativa e non è neanche autonomo adesso, e tra l'altro ha escluso in ogni modo che si possa dimettere, mentre le opposizioni, esclusa Forza Italia, continuano a insistere su questo. Avete sentito Centinaio della Lega, sentiamo adesso Di Battista invece del Movimento 5 Stelle. Il ministro dell'Interno, anziché prendersela con l'intercettazione, deve correre a riferire in aula, a fornire spiegazioni. Se non le fornirà, evidentemente è in malafede e deve nascondere qualcosa, e quindi è meglio che rassegni immediatamente le dimissioni. Qua abbiamo un'inchiesta, l'ennesima appunto corruzione a Roma, dove sono stati intercettati 2 arrestati, uno parla del fratello di Alfano dicendo appunto che ha trovato un lavoro al fratello di Alfano a 160.000 euro all'anno. Un'altra arrestata dice che il padre di Alfano le ha dato 80 curricula per piazzare delle persone alle poste. Se il ministro dell'interno non ha appunto la dignità di venire immediatamente in aula a fornire delle spiegazioni, evidentemente questa cosa è molto molto grave. Difende invece il ministro Alfano Cicchitto del Nuovo Centrodestra. Ci troviamo di fronte a un caso esemplare di materiale di intercettazioni scartato dalla magistratura per quello che riguardava il loro uso penale, ma che evidentemente i brogliacci di essi sono rimasti nella disponibilità di qualcuno che ne sta facendo un uso assolutamente perverso. Vanno rinviate al mittente le richieste di dimissioni avanzate da alcuni gruppi che le hanno fatte già nel passato e comunque ci troviamo di fronte a un tentativo di destabilizzazione del quadro politico, ancor più irresponsabile se si tiene di conto i problemi che ha l'Italia davanti, dal Brexit al terrorismo all'immigrazione e anche al problema delle banche. Saluto Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao Barbara. Buonasera. E ti chiedo, sulla scia di quello che diceva Cicchitto, è un tentativo di destabilizzazione del quadro politico, anche se riaffermo che non emergono per ora fatti di rilevanza penale nei confronti del ministro Alfano? Allora, non so se sia un tentativo. Fatto sta che la destabilizzazione c'è, questo è un fatto invece. C'è un rischio di crisi di governo secondo te, Barbara, a questo punto? Il PD ha blindato Alfano, lo difende. Allora, tanto per essere chiari, sì. Il rischio di crisi di governo non c'entra niente con l'inchiesta Labirinto, con l'inchiesta di questi giorni. Cioè, il rischio di crisi di governo è per i mal di pancia che ci sono nel partito di Alfano, che ci sono e che sono esplosi dopo i risultati delle amministrative, perché c'è una parte del partito, in particolare una pattuglia di senatori, e sappiamo che al Senato i numeri della maggioranza fin dall'inizio della legislatura sono molto risicati, che vuole tornare nel centrodestra perché teme praticamente di rimanere in mezzo al guado, cioè non stare con il centrosinistra, non stare col centrodestra e quindi morire praticamente. E quindi insistono per poter traslocare di nuovo nel centrodestra. Ieri abbiamo avuto un piccolo segnale con la presenza di due senatori appunto di NCD all'assemblea fatta dai senatori di Forza Italia, Lega, Fittiani, tutto il centrodestra riunito per contro il referendum per promuovere la campagna per il no. E ieri c'era la presenza, Formigoni. Formigoni dice, scusami, dice per esempio oggi propone un appoggio esterno al governo, quindi vabbè, comincia a prendere distanza. Il primo passaggio, no? Perché poi ecco, poi c'è da dire un'altra cosa. Allora, si vuole, cioè, diciamo questa mossa non è fatta da chi vuole andare al voto. Questo è chiaro, cioè al voto non ci vogliono andare, forse solo i grillini vogliono andare a votare, ma in realtà l'obiettivo è quello di logorare Renzi per arrivare al referendum, alla sconfitta di Renzi al referendum e fare, lo ha detto oggi apertamente Giovanni Toti, che è un esponente, un alto esponente di Forza Italia, per fare quello che definiscono un governo di scopo. E cosa dovrebbe fare questo governo di scopo? Una nuova legge elettorale. Ecco, cioè ritorniamo all'inizio della legislatura, perché questa legislatura, le grandi intese iniziali, come ricorderanno i nostri ascoltatori, sono nate proprio per le riforme, la riforma costituzionale e la legge elettorale. Allora, siccome l'Italicum non piace, è inutile qui dire il perché non piace perché sostanzialmente nella situazione attuale, cioè con tre poli, centro-sinistra, centrodestra e Movimento 5 Stelle, uno di questi tre poli verrebbe di fatto fatto fuori e quindi si vorrebbe, come dire, un sistema diverso. Questo governo di scopo servirebbe sostanzialmente a fare questo sistema, una nuova legge elettorale. Quindi l'obiettivo è appunto mettere all'angolo Renzi, confidare in un PD, perché ovviamente poi vanno cercati i numeri per questo governo di scopo, la convinzione di chi si sta muovendo in questo senso, non solo nel centrodestra ma anche nella minoranza PD, è che il PD faccia esattamente quello che ha fatto con Letta, ovvero gli giri le spalle a Renzi e si rimbarchi in una nuova maggioranza. È fantapolitica? Non lo so. Certamente non si tiene conto di una situazione che è ben più complessa da un punto di vista, diciamo, generale, internazionale. Cioè, vediamo quello che sta succedendo sulle banche. Cioè, l'idea che abbiamo parlato tanto di Brexit, appunto, delle conseguenze in Gran Bretagna per Brexit, oppure della paralisi in Spagna per l'assenza per la impossibilità di fare un governo. E sembra che in Italia invece cade un governo, se ne fa un altro, non succede niente. Probabilmente qualcosa succederebbe. E diciamo che è ancora prematuro, però la prossima settimana c'è un appuntamento, diciamo, importante, che può essere sì una cartina tornasole. Si vota DDL sul bilancio degli enti locali, richiede una maggioranza assoluta, quindi non una maggioranza relativa, servono quindi 161 voti. Se questa pattuglia di senatori di centrista vuole dare un segnale, lo si vedrà già in quell'occasione. Già in quell'occasione. E lì ci risentiremo, allora, anzi ci sentiamo prima, naturalmente, per fare poi il punto politico della settimana. Grazie Barbara Fiammeri. Grazie a voi, buonasera. Ciao Barbara. I vostri messaggi ancora prima di lasciarci, sempre questa commissione d'inchiesta che accusa Blair per la guerra in Iraq. Dice per esempio questo ascoltatore, vi ricordo che potete scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666, che è per WhatsApp e SMS, Massimo da Roma. Una guerra all'Iraq ha portato alla nascita dell'ISIS passando per le primavere arabe e oggi ci dicono che si sono sbagliati. Tra qualche anno ci diranno anche che l'Europa è stato uno sbaglio dopo aver devastato nazioni intere. Non farei proprio questo paragone, ma insomma questa è l'opinione di questo ascoltatore. Poi ancora un altro messaggio, tra i tanti, Francesco da Pavia: possiamo ricordare la battaglia decennale di Pannella per chiedere la verità sulle decisioni di Blair e Bush e quella più recente per il diritto alla conoscenza. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, voi continuate con le vostre riflessioni. Piccola pausa e poi riprendiamo con gli altri temi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, ormai lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Le notizie dal mondo e dall'Italia ogni sera, un quadro completo e esauriente di quello che succede, approfondimenti con i vari argomenti. Ne abbiamo appena parlato dell'inchiesta e anche della valenza politica di questa inchiesta della Procura di Roma che si chiama Labirinto, con tutte le implicazioni sul ministro Alfano, il rischio di una crisi di governo, di un voto anticipato, eccetera eccetera. Ora passiamo ad altri argomenti, però intanto continuo a vedere i vostri messaggi molto appassionati sulla questa accusa di questa commissione d'inchiesta nei confronti dell'ex primo ministro britannico Tony Blair, che dice quella guerra era ingiusta, insensata, non si fondava su degli elementi legali, giuridici soddisfacenti e non ha valutato quali potevano essere le conseguenze. Cosa avete pensato allora nel 2003, quando ci fu questa guerra contro Saddam Hussein e le sue fantomatiche armi di distruzione di massa, e cosa pensate adesso? Marco scrive, e voi continuate a scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche al 349-238-6666. Marco dice: la scelta di Blair al pari di quella di Bush era palesemente ingiusta fin dall'inizio. Cercare di autoassolversi mostra solo la piccolezza dell'ex primo ministro inglese. Troppi omuncoli oggi assurgono a ruoli che non sono capaci di interpretare, scrive Marco. Poi invece c'è per esempio questo messaggio senza firma: venne qui ad Assisi Tarek Aziz era ministro braccio destro di Saddam Hussein al tempo, giurando sulla tomba di San Francesco che non aveva armi di distruzione di massa. Vabbè, questo è un particolare, diciamo. Il mondo è migliore senza Saddam, scrive un altro ascoltatore o ascoltatrice. Dovendo proprio scegliere, l'avrei preferito all'ISIS. Cristiana scrive: che faccia tosta Blair. E poi Lorenzo: gli stessi dittatori fatti salire dai paesi occidentali sono stati detronizzati a tempo debito, cioè quando serviva petrolio. È una buona scusa per continuare a infloridire l'industria delle armi, era evidente allora e oggi anche peggio, è stato come scoperchiare il vaso di Pandora. Gianfranco da Sassari: il mondo sarebbe migliore senza i criminali Bush e Blair, si vede oggi il disastro. Vi ricordo molto velocemente le notizie più importanti e passiamo al prossimo approfondimento. Cominciamo dal Bangladesh con le autopsie dei corpi degli italiani che rivelano gli italiani sono stati torturati, una morte lenta, mutilazioni e niente colpi di grazia. Banche, vertice anticrisi a Palazzo Chigi, Renzi rassicura, i correntisti saranno tutelati, il problema non è l'Italia, con l'effetto Brexit borse europee in rosso. L'inchiesta Labirinto, il ministro Alfano nella bufera, non mi dimetto, fa sapere, il PD lo blinda, le opposizioni insistono sulle dimissioni. La guerra in Iraq, invadere il paese fu una scelta precipitosa, una commissione d'inchiesta punta il dito su Blair, lui si difende, dice il mondo è migliore senza Saddam. Marche, è morto il profugo nigeriano pestato a sangue a Fermo dopo aver difeso la moglie da insulti razzisti. Milano, 11 arresti per appalti legati a Fiera Milano ed Expo, agevolati clan mafiosi, e di questo ora parliamo. Quindi, oltre a quella della Procura di Roma, Labirinto, di cui abbiamo appena parlato, si è parlato anche delle implicazioni fortemente politiche, c'è un'inchiesta che riguarda Milano, più precisamente si parla di mani della mafia sugli appalti della Fiera di Milano e di Expo, e di questo ci parla più precisamente la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, Raffaella, ciao ai nostri ascoltatori. Si può dire un'inchiesta al giorno, un'inchiesta giudiziaria al giorno, leva la speranza di torno o forse la alimenta perché vengono scoperchiate queste cose? Non so più cosa pensare. Beh, è un po' amara come riflessione, però molto spesso capita che in questo momento, il mese di luglio, come a volte capita con il mese di dicembre, è un momento in cui vengono chiuse inchieste importanti, e una di queste è di sicuro quella che ha portato all'ordinanza di custodia cautelare oggi all'arresto per 11 persone, come ricordavi, che ha ricostruito soprattutto come parte delle cosche nissene, quindi parliamo di cosche di mafia della provincia di Caltanissetta, siano riuscite ad infiltrarsi nell'allestimento di almeno 4 padiglioni di Expo in una serie di subappalti tra una società, un consorzio di società e una società che è controllata al 100% dall'ente Fiera di Milano, che però, come hanno ribadito oggi i magistrati milanesi, non è coinvolta, non è indagata. Cioè, l'inchiesta va su due piani: da una parte c'è quello che è stato ricostruito, cioè il modo in cui attraverso evasioni fiscali, prestanomi, false fatturazioni si sia riusciti appunto ad entrare in questi appalti, ed è stato anche trovato un vero e proprio fiume di denaro, pensate che più di 1 milione di euro è stato sequestrato in contanti, poi sentiremo anche un'intercettazione su questo. Proprio con le modalità più varie. Dall'altra parte, quello che emerge da questa inchiesta è anche uno status dell'imprenditoria milanese, questo sottolinea in particolar modo il GIP, che non ha voluto vedere quello che succedeva intorno, che quindi non ha responsabilità di tipo penale almeno fino ad ora, ma che però non ha voluto farsi delle domande davanti alle evidenti anomalie, così scrivono i magistrati, che di quanto succedeva. A proposito appunto dei soldi in contanti, alcuni li hanno trovati sequestrati anche all'interno di un canotto, altri invece li hanno sequestrati ad un avvocato di Caltanissetta fermato con 300.000 euro nascosti in buste di plastica, e questo è quello che dice lo stesso avvocato tipo in una intercettazione ambientale. Sentiamo. Non sanno mai, perché la cosa è pesante laggiù, visto che io non l'ho visto mai. Poi mi hanno proprio seguito in autostrada, mi hanno bloccato, ora sono dietro loro, quando poi hanno visto che c'erano questi soldi, adesso sono dei soldi miei, di un onorario. Raffaella, appunto, sì. Soldi di un onorario che diceva di aver ricevuto in nero, quindi tra l'altro ammettendo comunque la commissione di un reato, 300.000 euro nascosti in buste di plastica, quindi un'inchiesta che comunque adesso apre anche un fronte che sia politico, ma anche che riguarda un po' tutto il dibattito che c'è stato sui modelli dell'authority, dell'anticorruzione di Cantone, i modelli della trasparenza e insomma sugli appalti, tutta la questione che c'è stata prima di Expo. Già, senti Raffaella, per chiudere, potrebbe quindi dirsi che in parte ha fallito questa supervisione dell'anticorruzione? No, questo non si può dire, questo non si può dire senza alcun dubbio per due ragioni. La prima è che in questo caso a controllare, questa non è un'inchiesta che riguarda la società Expo. Infatti, e l'authority aveva il compito di controllare direttamente gli asfalti di Expo, e questo è un tutto un giro che dalla Fiera Expo passa ad una società controllata, la Nolo Stand, che a sua volta è questa che non ha controllato gli appalti di un'altra società, questa cooperativa operativa Dominus. E dall'altra parte perché appunto guardando tutti gli elementi anche amministrativi erano tutti a posto, certo, diciamo così. Non si può parlare di fallimento, però sicuramente resta il dubbio di capire che cosa si sarebbe potuto far di più, anche solo andando a guardare, diciamo, i casellari giudiziari e le storie di certi personaggi. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, ciao. Viabilità. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi e con me, voi, il vostro ascolto, i vostri messaggi. Eugenio per esempio scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sempre a proposito delle accuse nei confronti di Blair da questa commissione d'inchiesta relativa alla guerra in Iraq. Dobbiamo ringraziare, scrive Eugenio, la premiata ditta Bush Blair e lo sciagurato decennio in cui sono stati al potere, se oggi il mondo è sconvolto dal terrorismo fondamentalista. La nascita dell'ISIS e la sua affermazione sono direttamente riconducibili a quella guerra, lo ha ammesso lo stesso Blair, dice Eugenio. Adesso però velocemente le notizie più importanti della giornata, con Renzi che sulle banche tranquillizza i correntisti, non avranno problemi. Intanto c'è stato un vertice sulle banche al Palazzo Chigi con il ministro Padoan. Il PD che blinda Alfano, ma il nuovo centrodestra è nel caos per l'inchiesta Labirinto, che in qualche modo lambisce appunto il fratello del ministro Alfano e forse anche il padre. E poi 11 arresti a Milano, la mano del clan sui capannoni per Expo e la Fiera Milano, ne abbiamo appena parlato di questa inchiesta a Milano. E poi dal Bangladesh le autopsie sui Novit, italiani uccisi, dalle autopsie emerge che sono stati torturati e mutilati, una morte atroce. Europa 24 notte. Dal prossimo autunno l'Unione Europea avrà una propria guardia costiera e di frontiera, un sistema di controllo che riunisce l'agenzia comunitaria di frontiera Frontex e le autorità di gestione delle frontiere nazionali. Il disco verde è arrivato oggi dal Parlamento Europeo. 1500 guardie dislocate nei rispettivi paesi di appartenenza, ma pronte ad essere mobilitate altrove con breve preavviso. È la nuova Guardia Costiera e di Frontiera Europea che di fatto trasforma struttura, mandato e funzioni di Frontex, l'agenzia europea responsabile per la gestione e il controllo delle frontiere esterne dell'Europa. Il regolamento, approvato oggi dal Parlamento di Strasburgo, dovrebbe entrare in vigore dopo il via libera del Consiglio UE dopo l'estate. Se vogliamo gestire meglio la migrazione e preservare Schengen, dobbiamo rafforzare la gestione comune delle frontiere esterne. E la decisione di oggi, scrivono in una nota congiunta il vicepresidente della Commissione Timmermans e il commissario all'immigrazione Avramopoulos, è un importante passo in avanti in questa direzione. La prova che l'Unione tiene fede ai propri impegni in modo rapido. Dall'autunno dunque, in base alle nuove regole, i paesi europei continueranno ad occuparsi delle attività giornaliere di gestione, ma di fronte ad una situazione critica potranno chiedere l'intervento del nuovo corpo di polizia. Non è una bacchetta magica che può risolvere la crisi dell'immigrazione, ma è un primo passo davvero necessario, commenta il relatore Artis Pabriks del Partito Popolare Europeo, così l'europarlamentare del PD Cécile Kyenge, una delle maggiori sostenitrici di questa misura. Questa nuova guardia, cioè la guardia di frontiera e costiera, è stata istituita proprio per allo scopo di gestire meglio i flussi migratori, ma anche altre minacce potenziali come crimini transfrontalieri, che poi dovrà comunque intervenire in collaborazione con altre agenzie. E poi di garantire anche un livello elevato di sicurezza all'interno dell'Unione. Questa un po' anche per garantire lo spazio Schengen, quindi salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno. Tutto questo, il valore positivo, è che finalmente si riconoscono le frontiere esterne di ogni paese, di ogni Stato membro, come frontiere dell'Unione Europea, quindi sarà una gestione integrata, responsabile delle frontiere dell'Unione. E questa, a mio avviso, significa più Europa, più solidarietà e più equa ripartizione delle responsabilità. 1500 uomini faranno parte di questo corpo. Non è un po' poco per proteggere tutte le frontiere esterne dell'Europa? È un primo passo. È un primo passo e devo dire che non rientrano nello staff dell'agenzia, ma che sono distaccate dagli stati membri. Io credo che si inizia da qui e poi via via si andrà ad aumentare, perché l'obiettivo è quello che a un certo punto si possa comunque e avere una gestione responsabile una volta che si presentano i problemi e poi si vedono anche le difficoltà. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E ora il nostro Dario Ricci su Euro 2016, questa prima semifinale Portogallo-Galles. Senti Dario, ogni volta che alzo gli occhi all'apparecchio TV vedo inquadrato Cristiano Ronaldo. Lo fanno per far vedere come è curato, come è bello, o perché interviene spesso? Beh, sarà per entrambi i motivi, perché lo vedi, raramente si spettina e malgrado questo è sempre estremamente efficace. In realtà stasera più sbadigli che occasioni da gol a Lione tra Portogallo e Galles, primo tempo che si è chiuso sullo 0-0, c'è stato quel diagonale di João Mário che abbiamo descritto proprio nel precedente collegamento per il Portogallo, poi un colpo di testa dello stesso Ronaldo fuori, abbondantemente fuori, inframmezzate queste due mezze occasioni da una girata, una bella girata di sinistra di Gareth Bale, fuori classe del Galles, che è anche compagno di squadra e campione d'Europa insieme a Cristiano Ronaldo nel Real Madrid, anche in questo caso però occasione di poco al lato, insomma qualche sbadiglio di troppo, poche occasioni, ma si sa, le semifinali sono sempre partite molto sentite, quindi le squadre cercano di essere prima non prenderle e poi vediamo che succede. Qual è la prossima invece di semifinale? Dai. Domani c'è Germania-Francia, Marsiglia, quella che avrebbe dovuta essere noi la nostra semifinale e invece per pochi centimetri un rigore sbagliato di troppo, niente da fare. Dario, mi raccomando, provo di sbadigli, non ti addormentare nel frattempo. Dipende molto da loro, dipende molto da loro, perché se continua così sono a rischio, a forte rischio. Soporifero. Grazie Dario Ricci. Ciao. Ciao Dario, ancora un vostro messaggio, c'è tempo, dice per esempio Simone, è terribile a proposito della guerra in Iraq, ne pagheremo le conseguenze per anni, una guerra folle, Pannella propose delle soluzioni alternative ma nessuno lo ascoltò, fu facile profeta del disastro. Alessandro, no, Andrea dice sono uno dei 3 milioni che avevano capito tutto prima che accadesse e avevo marciato nelle nostre città contro la guerra. A questo punto ci dobbiamo brevemente lasciare, poi sapete che ci risentiamo alle 22 giusto per gli aggiornamenti.